Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La nostra sufficienza è Allah. Allah ci basta. Ottimo difensore. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ottimo patrono e ottimo soccorritore.